fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ci siamo ancora belli freschi nonostante l'ora tarda e ancora desiderosi di conoscere nuovi festeggiati, anche perché ragazzi il futuro sposo che abbiamo qui, il personaggio che abbiamo qui deve essere conosciuto, perché non lo vedete, ma anzi direi che meglio se ti descrivi da solo, perché mi sembra doveroso che tu ti descrivi da solo. Vai, autodescriviti. Pensarmi da solo è un po' complicato. Vai, provaci. No, lo lascio ai miei amici. Alessio, capelli lunghi biondi, occhi azzurri, palestrato. Era senza ombro di dubbio il più bello del convento, con la sua maschera, con gli occhiali e il naso. E senza naso. Sì, non è vero, il naso non faceva parte della maschera. Ah, ok. No, quello non faceva parte del costume, ok? È una bellezza naturale, io ho un naso nobile, non lo riuscite a comprendere. Sei innato. Sì, è solo per pochi. Non riesco a comprendere la nobiltà del naso. Ci sta. Allora, come ti chiami intanto? Alessio, da dove vieni? Da Napoli. Napoli, però, quindi hai fatto insomma due passi per raggiungerci, no? Comodo. Oddio, lavoro a Bergamo, quindi... Ah, ok, quindi comunque sarà piantato in zona. Poco, però comunque sia, ma non perché Bergamo abbia qualcosa di sbagliato, è semplicemente perché comunque vogliamo ritornare a casa a lavorare. Ah, ok, ci sta. Però, ok, allora cosa festeggi con noi questa sera? C'è un addio al celibato da festeggiare, ragazzi. Come vestito più un addio al nobilato? Potrebbe, sì. Perché, ma io voglio che qualcuno si prenda, come dire, la responsabilità di descriverlo. Chi si prende? Vai, Beppe. Vabbè, ce l'hai lì davanti. Parla da lì. Per questo addio nubilato 2019 indossa un 2019, perché poi si potrebbe ripetere 2020, cambia costume. Bene, auguri questa serata. Amico, amici, ne ho mentre hai bisogno. Ora Alessio indossa un occhialino alla Paris Hilton. Più alla Elton John che alla Paris Hilton. No, Paris Hilton, guardandolo. Non lontano, Elton John. Che ha indossato 32 euro di velo con ricami fatti da... Hanno anche fatto degli investimenti, Penso che neanche mia moglie abbia speso 30 euro. Esatto. Per un velone molto bello di pizzo, 5 euro. Dopo questo ragazzo lo fa di lavoro, di descrivere la gente, che verrà bravissimo. E che indossa più? Una giarrettiera che ancora non ha sforciato. 7,25 euro che abbiamo preso in saldo. Ma tra l'altro hanno una memoria dei prezzi incredibile. È tutto su Amazon Prime. Si ricordano tutto. Tutto su Amazon Prime, capito? Però guarda che ricordarsi le cifre precisamente non è da tutti. Perché porteranno a detrazione tutto alla fine. Ah, perché che... furbi. Sarebbe spese mediche. Infatti, come fanno a giustificarle per recuperare? Spese mediche. Tu sei la cavia. Sei la cavia. Allora, il nostro Alessio, giusto, si sposa, immagino. Praticamente sì, tra 6 giorni. Ah, una settimana, manca poco. Allora, con chi? Con la bellissima Valeria. Ah, bellissima addirittura. Ci sta. Vuoi dirle qualcosa? Semplicemente è la ragazza più bella della storia, proprio. Della storia, proprio. Dal mille in avanti. No, proprio dal mesozoico. Ancora quando l'essere umano non c'era. Dal mesozoico, mi piace. Mi piace. Poi abbiamo un esempio di uomo di Neanderthal, non c'è Giacomino. Ah, è bene, sarà disperso. C'è un mezzo uomo di Neanderthal. Ah, beh, lo salutiamo. Perfetto. Allora, loro sono tutti i tuoi amici, immagino? Sì. Ok, misto tra l'altro. Certo. Ma a parte tutti gli scherzi, vi auguriamo il meglio per questa vita di coppia ad Alessio e a Valeria. Un futuro radioso, prospero. Prospero. Valeria è l'ex moglie di Alessio. Ma ancora nemmeno devo contrarre matrimonio. No, che non è una malattia, effettivamente se ci pensi si dice contrario. Infatti si dice così. Lo pensi effettivamente? È vero, fatti delle domande, fatti e anche contrarre malattia. Devi farti delle domande. Si spera non sia tipo la candida, sai? Esatto, no, poi ma un po' malaugurante. Alfredo, tu che sei il testimone di nozze. ti auguro di non fare mai più un matrimonio del genere, perché comunque perché un matrimonio ancora non dobbiamo ma ti ringrazio per questi sono i testimoni di nozze. Ah beh, ci sta, ci sta, quelli che si impegnano di più anche economicamente parlando, quindi è giusto che esatto, vadano a riscuotere a una certa. Ma riscuotere, sei il testimone di nozze. No, comunque dovrebbe essere un piacere. Hai capito? Dove sei onorato di fare il tuo testimone di nozze. Non vedo l'ora. Piacere per me cacciare tanti soldi per lui. Cacciare tanti soldi, cioè proprio io non lo so. Cioè, un materialista. Materialista, bravo, bravo, la nozione è giusta, l'aggettivo esatto. E vorrei fare anche un applauso a Pez, l'eroe di serata. Allora, una sera ci abbandona stasera. Pez, abbiamo un amico, il poverino è collassato da tipo un paio d'ore. Sì, ce l'abbiamo collassato, abbiamo posato su una sedia, cioè, tipo, è diventato... è un soprammobile probabilmente. E infatti, no, tra l'altro voi non lo sapete, ma è diventato parte dell'arredamento. Sì, no, ma per il prossimo mese, cioè, è esatto, rimane lì perché pezzullo a muro, e lo vende l'IKEA, lo vende. Sì, sì, sì, no, adesso gli daremo un'etichetta, gli daremo un nome strano con molte consonanti, così lo possiamo fare entrare nel catalogo IKEA. Pezzullo a muro. Onore a Pezzullo. Con onore. No, aspettavo. Stasera era l'eroe della serata, è stato lui l'attrazione nel modo più assoluto. In forma. Allora lo salutiamo, anche perché poi lo vedremo spesso nelle prossime settimane. Sicuramente lo vedrai seduto probabilmente al tavolo. Esatto, vedendolo qui con noi. E soprattutto salutiamo loro, salutiamo lui, augurandogli un buonissimo futuro matrimonio. E grazie ragazzi per aver fatto parte della nostra e della sua festa. Grazie a te. Buonanotte. Grazie a te per averci dato la possibilità di condividere questa esperienza, perché è un'esperienza, è un po' come vivere una radio, ci piace viverla così e dare la possibilità a tutti di provarla. Possiamo chiamare qualcuno a casa per un gioco, diciamo, è l'ora giusta per fare i quiz. Allora potrebbe essere, possiamo provare, ci pensiamo. Ok, grazie mille ragazzi, ciao.